tutto e poi ci trovi al sole, mamma mia, vabbè. E beh, al computer hai trovato qualcosa? No, stavo guardando. Sto passeggiando così, però non possibile, come niente di che. Io l'ho trovato, il mese santo, già pagato tutto, 85 euro spedito. Spedito un'azienda per uno che vende, che c'è un negozio, ma l'ha trovato Roberto. Dovrebbe arrivare lunedì, dovrebbe arrivare dopodomani, lunedì dovrebbe arrivare. Sì, lo so, ti ho sentito l'altro giorno e quindi ho terminato la ricerca, ma ti ripeto, erano pronta consegna, ma consegna a mano. No, questo ha mandato la foto, ha fatto tutto Roberto, ha mandato la foto abbastanza nuovo e niente, 75 euro più 10 euro spedizione, ma 85 euro spedito. Vabbè, si può fare da Roma poi, quindi niente seria. E così lo attacco all'altra radio. Insomma, ogni volta che cambio radio lo attacco alle 60, attaccarlo lì, perché la Donis non mi piace, no? Esteticamente non mi piace, e poi mi sono ascoltato, c'è la modulazione sì forte, però non è come questa delle 60. Sì, ma bene o male, ti ripeto, anche il ZG che ho io, più 5, molte volte in base alla radio che rompi si assomiglia, dai, non è che è quella timbrica, la timbrica che fa. Infatti la timbrica, ma poi esteticamente non mi piace, come le MC80, lo sai, anche a te non è mai piaciuto questo flessibile, questa cosa bellino, c'ha due uscite, una Icom, una Kenwood, puoi usare anche Kenwood e Kenwood, quindi con una radio puoi usare due, con un microfono due radio, costa anche 140 euro pagato nuovo, però esteticamente non mi piace, ho detto non me ne funziona da una 1060 e questo lo metto dentro la scatola e lo rimetto a posto. Sì, manca altro quando magari penso, mai capiti, ma se dovesse funzionare male qualcuno era il sostituto. Sì, ma stavo pensando di cambiare le connessioni anziché, oppure lasciare la connessione perché c'è un cavetto uscita a tempo, dell'altro è libero, quindi l'altro magari farglielo IAESO, perché c'ho anche il 757 GX2 e fare la connessione IAESO e usarlo con IAESO, ma col K voglio il 60, no, non c'è Cristo. È così. No, 60-60, la timbrica è quella. Mi stavamo facendo le prove giù con Fabrizio, anche lui tra un 60, un altro microfono, quella vale sempre 60, non c'è niente da fare. Volevo chiamare quando ero in strada, poi tra una cosa e l'altra stavo parlando di un figlio e stavo bravo, chiamo prenderci fuori, me ne scritto anche di te, ma già avremo da sentirci. Eia, no, io già l'ho sentito in radio. Vabbè, ma allora c'ho Risetti, boh, le 7:30. Sì, l'8:30 sono. 8:30, sì, stavamo in giamma. E ci andiamo a vedere cosa ha preparato. Dai, ti, già lascio tutto acceso qua, al limite ci aggiorniamo dopo, ok? Sì, d'accordo, ciao. Sezione 10, c'è qualcuno? Hola, 110. Buonasera. Parlo, buonasera. Ah no, scusa, avevo commutato male. No, ho detto che più basso del sole, però con l'altra commutazione, l'altra radio commutata, per quello arrivavi più basso. So meglio? Il commutato è arrivato in 9:20, cioè che ero, io ho il commutatore antenna, il Magnum, ero sull'altra parata, ho detto che come arriva a 9:20, invece ho detto no, ferma tutto, qua c'è problema. No, sembra tutto a posto. Quasi 9:50, sì, figurati. Perché praticamente io ti sento anche benissimo, a volte scendo giù in garage a fare qualcosa eccetera e ho la radiolina portatile e ti sento a bomba anche là, vuol dire che diciamo la linea dell'aria è abbastanza vicino da qua. Cucù. Antonello, c'è Carlo, vabbè, ci siamo già più di un'ora, forse un'oretta e mezza, eravamo con Gianfranco e stavamo facendo delle operazioni di installazione dei programmi in remoto, lui da casa sua mi stava regolando delle cose per le apparecchiature. E io parlando col muro con te poco fa, Susanto, che l'ha fatto? Ha giudito, Antonello, passa sul 10. Ma c'era uno che c'aveva un ala 68 modificato e schiacciato, e davanti che voleva entrare, sapete che l'ho sentito, e non è entrato. Ciao Carlo, salutoni. Buonasera Antonello, benvenuto. Io sono entrato adesso perché stasera ero impegnato, adesso ero in lettura e avevo acceso, ho sentito Roberto fare la chiamata e quindi eccomi qua. Ben sentito anche a te Antonello e anche Roberto ovviamente. Questo è un altro tipo di modulazione, come va dalle parti tue, visto che siamo abbastanza vicini, Carlo? Guarda, il segnale è sempre fondo scala e radio ottima. Meno potente dell'altra o non noti differenza rispetto alla solita mia? Guarda, solo forse la voce è meno, diciamo, squillante, ma il segnale è sempre fondo scala per me, quindi non cambia niente da quel punto di vista. Forse magari era il tipo di microfono, magari. No, il microfono è uguale, solo stiamo parlando di radio diverse, questa è una un po' più moderna rispetto a quella che uso solitamente. E basta, diciamo è adatta per fare altre cose, comunque anche qua in AM funziona discretamente, dai. A voglia, va benissimo. Vai Antone. Aspetta, rimetto l'altra, scusa un attimo Carlo, metto l'altra perché c'è un altro parlante diverso, più performante rispetto a quello. La fornetta sono più a fuoco. Antone, ho provato quel miscelatore, va benissimo. Hai visto? Funziona bene, sì. È perfetto, anche controllando, diciamo, con lo smitter mi dà sempre uno, meno di uno con l'antenna, la radio si riceve bene. Ovviamente ho provato, prima di piazzarlo l'ho voluto provare, capito? Una fatica per togliere il cavo dell'antenna dello stereo. Adesso ho capito come fare, quindi mi devo fissare bene la basetta e penso di farlo quando si stabilizza un po' il tempo definitivo, capito? Però funziona perfettamente. Meglio così, sono contento. Hai visto? Io non facevo niente, macchina non ne ho. L'ho trovato perché quel pezzo lì mi era stato mandato quando avevo preso io un 140, mi ha mandato quello, 3 rosmetri, anzi 3, erano 4 rosmetri mi ha mandato, un accordatore d'antenna che non ho capito cosa diavolo accordava perché faceva un sacco di funzioni, il microfono normale, ma ci ho fatto, sembrava il pacco di Natale, sembrava. Allora, questo l'ho messo da parte, mi ha detto a qualcuno, ti servirà. Tanto macchina io non ho, è difficile che me ne compro, cosa me la compro a fare la macchina, a pensare una cosa del genere. Allora l'ho messo da parte finché non mi sono ricordato, frugando, e tu pure mi sembra di avere un miscelatore. L'ho trovato e poi ti ho chiamato e ti ho detto vieni a prendertelo perché ce l'ho. E quindi mi sembra non è più neanche fusato quella roba lì. Sono proprio di raro una cosa del genere, un miscelatore. E penso che Fusaro li porta, ma su ordinazione, non credo che ne tengano più neanche. Io, a dir la verità, siccome per lavoro devo usare la macchina e a volte insomma ti ascolti anche qualche notiziario, tipo quando esco la mattina presto, io esco alle 4:30 la mattina e quindi ti fa compagnia a quell'ora in radio, in 27 non c'è nessuno e quindi mi accendo la radio, però a volte lo stesso quando esco ritornando da lavoro, tipo ieri sera per esempio, ho acceso all'aeroporto e sentivo le chiacchierate, ovviamente sentivo Claudio, Gianfranco, loro dall'aeroporto, io non arrivavo perché ovviamente è una radio con 4 watt, però una volta arrivato a Tutubella, che lì è più aperto, da lì li ho sentiti e ci parlavo tranquillamente anche io sino a Sassari, capito? Per cui diciamo che il miscelatore a me serviva per quello, proprio perché io faccio l'uso combinato di radio stereo e CB, capito? Contemporaneamente. Adesso appena lo installi lì direttamente l'antenna alla carrozzeria, vedrai che l'aeroporto arrivi tranquillamente qua, l'aeroporto di Alghero. Non è che partirà tutto bene, stai tranquillo. Fino a Alghero ti accompagna chiunque, ti accompagna. Il fatto è quando c'è una magnetica, cosa del genere, la massa non è massa, hai capito? Invece quando la metti ben piazzata l'antenna del baracchino, con la massa sua, ricordati quando installi la basetta sotto, di graffiare la carrozzeria sotto, perché c'è quella vernice metallizzata ancora. Lo graffi bene con un cacciavite e poi li metti la basetta della massa. Sopra invece non devi toccare nulla, niente. Ci metti il gommino che ti fa l'isolante e inizi la basetta, sei a posto. Sì, sicuramente una graffiatina gliela do perché aderisce bene, aderisce meglio, insomma. Grazie mille Antonio, non so come ringraziarti, mi sono risparmiato la fatica di andare a ricercarlo e poi acquistarlo. A buon rendere, quando avrei bisogno di qualcosa, se ti sento, magari se ho qualcosa io, tipo qualche smitter in più, eccetera, già ce li ho, se dovessero servirti basta dirmelo. Okay. Registrato il break. Però con gli smitter, guarda, se ti servono smitter e pezzi di baracchino già ne ho io. C'è un laboratorio qui dove stiamo parlando adesso, quindi figurati tu. C'ho anche le valvole per quando ti compri qualche lineare, a valvole, c'ho anche le valvole di ricambio. Quindi a voglia già ne ho roba. Proprio su quella roba lì c'ho tutto. Parte anche alimentatori di cose, di quei telefoni moderni vecchi, vabbè, già ti faccio vedere la roba, che c'è qualcosa d'altro, se la devo scendere in garage, così faccio fuori pulizia qua, perché sennò non ci sto più qua dentro io. Avanti, break. Grazie, buonasera, solo per un saluto che stavo spazzolando. Ciao Antonio, ciao Carlo, ben sentito, 9:10 qui a Ottava, la riuscita perfetta. Solo per un saluto a Roberto, da Giaguglia, Roberto, per quella questione, sempre ottimo. Benissimo, Antonio, riprendi, io chiudo che mi stavo chiamando. Stavo spazzolando, e solo per un saluto. Avanti Antonio. Ciao Mari, saluto, ben sentito. Ben ascoltato. Stanno a questo là, comunque meglio così, sono contento. Almeno c'è qualcuno a questo là ogni tanto. No, stavo spazzolando, ero da parecchio, ma stavo spazzolando, ero su altre frequenze e così via, tutto qua. Adesso è arrivata l'ora della pappa, ero andato a pizza, anche mi stavano già chiamando, io c'è il cane, quel piccolo cane che tu conosci sta abbagliando, vuol dire è già arrivato qualcuno. Ok, ti saluto Antonello, ciao anche a Carlo nuovamente, e ciao anche a Roberto, che è nascosto e sta entrando subito, io chiudo. Carlo, riprendi e quello che prende, ciao ciao a tutti, ciao. Prendo io, ciao Marino, grazie per gli auguri, dai, ce l'ho fatta, è andata bene. Ok, dai, ci risentiamo. Avanti Carlo. Buona mangiata di pizza, ciao. Allora Marino, ci sentiamo alle prossime. Avanti, che c'è? Antone, avanti. Ciao, ciao. Ciao, Clara. Ma guarda, c'è l'affettatrice, cosa va a corso? Anda bene, anda bene. Io mi sono mangiato la pizzetta, intanto. Ripeti, la Clara, Ma là c'è l'affettatrice attaccata, Antone. Ah? Affettatrice attaccata, si sente questo rumore così. No, la ventola è l'ammettatore cinese più che altro, dai. Lo so che si sente. Abbi pazienza, un paio di giorni, vedrai che non lo senti più adesso. Mi sto costruendo l'alimentatore nuovo, bene isolato, in modo che non si senta questa accidente di ventola. Appilalo senza ventola, appilalo un alimentatore grosso che non ha bisogno di ventola. Peccato, perché la modulazione è chiara, solo che tipo... Ciao Claudio, comunque. Ciao Re, ciao Carlo, Roberto, Antonello, buonasera. Antonello, cazzo meraviglio, te l'ho messa io, metti una resistenza nell'alimentazione della ventola e rimane molto più silenziosa, se no così si sente troppo, capito? Noi anche noi mi siamo in attesa delle pizze e via. Carlo, Carlo, Carlo. Come qua, Claudio, super bomba qua da me. Niente, oggi è giornata di pizza perché anche io ho mangiato quella, perché eravamo io, mia moglie, mio figlio, mia figlia è fuori con le amiche a cena e devo andare più tardi a prenderla, intorno alle 11:30 a mezzanotte, quindi sto facendo ora qua alla radio, tutto qui, a te Claudio. No, no, invece mia figlia sta rientrando da lavoro, mi ha detto 20 minuti e sono a casa. Sì, aspetta Luca, aspetta un secondo, sono alla radio, mi stava chiamando mia moglie. Infatti stiamo aspettando lì per cenare. KK, vai Robè, che mi sta chiamando moglie. A te ti fate drumi dentro la macchina, tu non vi credi, fai la bravo Cla. Mi fa dormire? Dentro la macchina fai la brava e ubbidisci quando ti chiamano. Allora, mi ha provato anche lei, il pantalone ce l'ho ancora io. Allora vai Antonio. Cara, non è vero, no. Ormai mi ha pigliato anche quelli a me, mia moglie, a me. La mattina quando esce si piglia il pantalone e il bancomat. Iaiai, il bancomat non si fida mai. Per un caffè che si piglia con le amiche. Allora, vediamo se c'è qualcuno qua su 10 che vuole entrare, attenzione 10. Una cosa e paghi l'altra, e poi alla fine ti arriva l'estratto conto e dici tutte queste cose ho pagato. Ma io lo passo a Antonio a cosa, a Carlo. Già lo passi a Carlo. Se il momento lo passi, il giorno d'ora che si piazza l'antenna come si deve, ti fa schiattare Carlo. Ecco qua c'hanno lo stesso segnale allucinante. Arriva 9:50 abbondanti e c'è il segnale tuo Antonetta e Carlo. Forse lo passi di radio tu Robè qua. Provate a vedere. Vai Carlo. 3 prova. 1, 2, 3 prova radio, ti crepo forte. 1, 2, 3 forte. Sì, sì, passi tu Robè. Passi tu, pensavo eravate a fare, no, passi tu. Non lo sento proprio sotto, ma di brutto. Tu prevali. Io ti ho lasciato la torre di controllo, devi cercare di non farti passare, sennò hai perso. Cazzo, la torretta. Ti ho lasciato tutta la zona a tua disposizione, io mi sono allontanato di un paio di chilometri, quindi non è che mi posso lamentare, per carità. Però adesso sei tu il dominatore della zona alta lì, non ti fare fregare. Sì, la mettiamo a cacchio a tutte le recinzioni in modo che non si avvicini nessuno a toccare le antenne. Sì, vabbè, tu e Antonello siete quelli che mi arrivate più forti di tutti. Anche Gianni è maledetto quando attacca a cazzo e puzzino giù. Muros, cacchio. No, Muros è il numero uno, non lo toccate, cioè Muros qua arriva 9:40. Tu e Antonello siete un po' più bassi di Claudio. Però Gianni lo più lume quando attacca, è 9:30 qua che... Più forte di me arriva. No, tu Antonello siete lasciando perdere Claudio che ce l'ho di fronte. Però tu Antonello siete quelli più alti qua. So con l'apparecchio, lo sai, quello piccolo. Però quando avevo la fortuna di trovare un 140-80, te lo faccio vedere io e torno come una volta. Diventerete la foresta attorno. Tra quello, il 600 watt che ho qui, quello, il BV2002 transitorizzato. Dice bene Antonio, ma io ti ho sempre ricevuto bene, vabbè che eravamo vicini, però qua arrivi benissimo. Ciao, lo sai, io non sono molto distante da te, poi è alto, li ricevo tutti. Pensavo peggio, però arrivate tutti oltre 9.10, 9.20, chi 9.30, 9.40. Alghero mi arriva 9, Polotolese 9, Sorso 9, insomma non mi posso lamentare, dai. Arrivate todos bien, caro Carlo, aiuto, da voi questa antenna, guarda che è arrivata, Eia, cosa Gianfranco mi ha messo la paranoia dei fulmini adesso? Ma noi CB dobbiamo sempre mettere in considerazione che usiamo delle antenne verticali alte, quindi tipo la Mantova, tipo questa che ho io, la Smartec, tipo tante altre antenne, quindi siamo sempre soggetti, però se pensiamo a queste cose allora non andiamo più avanti, tanto guarda, se deve succedere, succede lo stesso, è Carlo, vero Roberto? Io lo credo, basta che c'è anche un pezzo di fil di ferro. Guardami questo segnale portante muto e poi faccio un'altra prova. 9.30 pieno. Il secondo quanto era? Il secondo mi è sembrato un po' più alto, però sei stato talmente veloce, io ce l'ho mezzo CB, dammi il tempo, rifallo. Guarda un attimo, portante muto a questo. Vai. Questo sì in FM, passa in AM. Allora, volevo fare la prova a portante muto in AM e in FM, allora, portante muto AM è questo, guarda. Uguali, precisi identici, 9 più 30 in AM portante muta, 9 più 30 in FM portante muta, solo che se parli è più alto. E io non volevo fare nessuna differenza, perché la radio spinge molto molto di più come segnale, parliamo come potenza in FM questa radio. Ma io non posso ascoltarti in FM, cioè metti la portante in FM e io sono in AM, se passo in FM mi arrivi a fondo scala, che discorsi sono, quindi ho fatto sbagliare la patente. No, era soltanto una curiosità, non l'avevo mai fatto. Ok, vediamo un pochettino su 10 se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Immaginate che in FM sei sopra il DB, cioè non c'è più smitter. In AM sei 9.30, è normale, no? Sì, no, ma volevo vedere la portante muta se cambiava qualcosa. No, perché io sono rimasto in AM e quindi non cambia niente, capito? Eia. Per me come cambiava sempre uguale, non cambiava niente, quando è passato FM io ho premuto FM ed era uguale. Secondo che quando pioveva c'erano temporali, non dormivo per come è successo a un mio carissimo collega radioamatore, però non è detto, cioè le antenne sono antenne, poi le calamità naturali sono calamità naturali, no, non c'entra assolutamente niente, se pensiamo a queste cose allora non piantiamo più antenne, usiamo solo le filari e basta. Carlo, nella tua zona ci sono palazzi più alti di te? Ho capito l'ultima, nella mia zona ci sono? Palazzi più alti del tuo? Negativo, mi sa che il mio con l'antenna supera anche i ripetitori del palazzo della Telecom. Quindi non c'è un palazzo più alto del tuo? No, dove ho l'antenna io sono salito su questa specie di casettina e sono a livello diciamo dei ripetitori del palazzo diciamo della Telecom. Considera che lì hanno una sorta di torretta dove sono tutti attaccati, no? E ovviamente la mia antenna è ancora più in alto perché ho il tubo più alto e quindi dovrebbe essere più alto. Poi da una parte non ho costruzioni, ma c'è quel parco con gli alberi, invece dall'altra parte ci sono case e altre antenne. Perché quello della Telecom, di lì c'è il coso, la gabbia di Faraday, un parafulmine di lì, per cui dovreste essere protetto, a meno che non sia così sfigato che te ne salta sopra di te. Penso di sì, perché in linea d'aria è vicinissimo, ce l'ho proprio di fronte, sarà linea d'aria, saranno 70 metri. Va bene, no, non c'è problema. Sei coperto, ma poi non c'è bisogno di salire all'impicco, cioè 8,50 m l'antenna, quando tu le metti un paletto da 2 metri, 3 metri, va più che bene, io ce l'ho a 4 metri, 2 metri attaccati al muro e 2 metri che stanno lavorando, quindi di cosa... giovedì sera alle 5 è arrivata, l'ho già sballata, controllata, se c'è tutto a posto. E niente, adesso vedo, ascolta, quando ci possiamo vedere, al limite così vengo e la vedo di persona. Non problem, già ci sentiamo e ci vediamo, non c'è problema, fammi sapere tu, io basta che lo sappia, se no me la metto in macchina, non c'è problema, passi da Roberto e te la guardi, se ti piace oddio, un'antenna, funzionamento è questo, io sono veramente molto soddisfatto, infatti questa estate la mantova la tolgo, ne lascio una sola, capito, se no diventa un baraccone e poi non voglio che mia figlia mi rompa le palle. Ho capito. Allora, il problema è che ho i muratori in costruzione del bagno, non a casa mia ma da mia suocera, ma sto seguendo io i lavori questa settimana. Poi la prossima sino al 24 sono impegnato. Io mi posso far vedere da giovedì, venerdì, sabato mattina se ti va bene, tutte quelle mattine, giovedì 25, 26, 27 sono libero. Eia, per non farti venire qua, io sono distante da te, abbastanza. La porto da Roberto, intanto in macchina ci sta, la porto da Roberto, passi in officina, ci diamo un orario, tanto il sabato mattina c'è sempre sino alle 10. Magari facciamo anche 10:30, non è un problema, già Roberto non ha problemi con me. Così la vedi e ci mettiamo d'accordo. Se non ti piace me la riporto via. Io me ne sono fatto mandare un'altra, credo se serve a qualcuno se la prende. Se no me la tengo io di scorta, non è un problema. No, già me la prendo io, non ti preoccupare. Ma una bella antenna, Carle, una bella antenna. Te ne accorgerai del QRM, di tutte le prestazioni che ha. È una 7 ottavi, capito? La distrugge la Mantova, anche se 5 ottavi, ma qua stiamo parlando quasi di un'onda intera, è favolosa. Io sono soddisfattissimo. Avanti, Robè, fai girare per Antonello. Ehi, a quel tipo del 60, claro. Sono entrato nel suo negozio, quello che sta vendendo, ma ti mette mai in testa cosa c'è di roba quello lì, ma di tutti i generi, e poi a prezzi allucinanti, c'era per dire un 8,50 della Kenwood, appena ce l'ha fotografato proprio il frontalino, c'è appena un tagliettino, 420 euro l'ha venduto, un 4,40 l'ha venduto a 300 euro senza l'accordatore interno, ma a prezzi allucinanti, c'ha anche il 9,90 della Kenwood, che costa 5.900 euro, di tutti i prezzi di più, 4,30, una marea di roba, ci sono una 50, fai 100 tipi di apparati e amplificatori, accordatori, eccetera, eccetera. Tenere in considerazione, perché se mi ritiro al 757 mi prendo un altro tipo di radio, capito? Mi prendo un altro tipo di radio, magari della ICO, ma qualcosa che mi può servire, visto che di HF ne ho tre, quella è la quarta, 757, se me la valuta bene ci faccio un pensino su qualche altra cosa. Bene ragazzi, è arrivata mia figlia da Trabacco, io vi saluto, vi abbraccio a tutti, se ci siete a dopo, altrimenti a Nuvolo dicono a Catacomete Cherette, ok? Vai Antone. Io, ciao, grazie, andiamo, buonanotte, buonasera, buon tutto. Alle prossime. Avanti, Robè, fai girare. E anche io so ancora che ci sono da presto, dai. Ok, ciao Claudio, ben sentito, già ci sentiamo spesso. Ciao Antonello, ciao Carlo, fatevi sentire più spesso, così magari qualche chiacchierata simpatica ce la facciamo. Cuore da parte mia, ciao ciao. Benemera, ciao Roberto, ciao Claudio, già ci risentiamo sicuramente. Io a volte coi turni non riesco sempre a essere in collegamento di sera perché lavoro, qualche volta con la macchina riesco a comunicare piano piano. e tutto qui. Riprendi Antonello. Via, ok. Vabbè, qua c'è un bus con 140, intorno ai 300 euro. Se di meno anche mette, ma comunque sia, va bene un 140, un 180, quello che è. Chiedi. E mi fai sapere, di più non voglio spendere perché non ne vale la pena, mi serve solamente per farmi le tarature dei baracchini che ho di qua, capito? Ho fatto male quella volta a prendermi quell'apparato che avevo, 500 euro, la verità. Potevo accontentarmi di quello che avevo, ma fa cura a me, cazzo. Anche perché mi veniva a fare le tarature FM, eccetera, eccetera, era precisissimo. Va bene, avanti Carlo. Scusa Antone, stavo guardando la marca dell'alimentatore mio, non mi ricordavo cosa fosse, sa Delta, però è quelli silenziosi, senza ventola, siccome me l'ho messo in alto nel mobile, ed è praticamente un input 220 AC 50 Hz, uscita 13,8, 10 ampere costanti, 12 ampere di sorgente, quindi dovrebbe, già è buono questo. Io voglio, no, io ho quelli, te l'ho detto, gli ho pagato una cazzata, no? Sono cinesi, so. C'era la 30, la 50 ampere, con 20 euro ti riesci, in pratica. Non è che costi 20-25 euro e sono un demonio come limitatori. L'unica cosa è che devi infilarcelo dentro una custodia come si deve e ti fai un bel alimentatore. C'ha tre uscite, c'ha tutti a 12 e l'ingresso a 220. Io quelli con la ventola, ne ho avuto uno buono con la ventola, ma me lo ero venduto tempo fa, non mi ricordo la marca, però era fastidiosissima perché ce l'avevo vicino alla radio e sentivi a volte più la ventola che le comunicazioni. Io vabbè, sempre questo la ventola c'è anche nel lineare, è il BV 2002 quando schiaccio, non è quello il problema. Adesso, siccome l'altro alimentatore che ho comprato, quello da 30 ampere, ci ho infilato dentro una scatola di metallo che ha le manecce, in pratica, e quindi lo sto modificando, gli sto mettendo l'attacco di sigari per poter utilizzare i nuovi tipi di apparato, perché quelli omologati ce ne sono parecchi che escono direttamente dalla fabbrica con l'attacco di sigari, per non stare a tagliare il cavo uso direttamente quello per fare cuffia e poi mi faccio due attacchi di banane normali, diciamo, bananine normali, rosso e nero, per poter utilizzare qualsiasi apparato HF, capito? E la ventola gliela metto dalla posteriore della parte di sopra e metto dalla parte di sotto, così aspira la parte di sotto e rimane silenziosa. Ho capito, sì, anche io uso l'attacco accendisigari, solitamente per esempio questa radio che sto usando non aveva l'uscita di alimentazione con attacco accendisigari, però gliel'ho fatta io perché è più pratico così, perché stacchi, attacchi un altro apparato che magari ce l'ha ed è molto molto più pratico. Quello sì, è portato via, sì, quello va bene. Già ce l'ho anch'io così, cioè la parete monolatica ce l'ho così, infatti non ho tagliato i cavetti io, invece gli altri apparati ce l'ho tutti senza essere in attacco cinesica, siccome è auto non le ho in casa, quindi lo utilizzo tramite le bananine rosse e nere e basta. E adesso quello che ho in macchina è un CB piccolo piccolo, però diciamo è un President Bill che stavo guardando se si può fare qualcosa per portargli su un po' di watt, è un po' complicato, però si può fare. Sì, per portare sui botti, guarda, ti conveniva. Per io oggi ne ho visto parecchi apparati in vendita su Facebook. C'era uno bellino, 50 euro, stazione base. Un Intec, 40 canali, stazione base c'era. 50 euro, quello da prendere al volo. Adesso non mi ricordo il modello. Va direttamente a 220, va. Ho capito, sì, ho visto che c'è un sacco di roba comunque in vendita, già ce n'è di apparecchiature da comprare, che ci vuole grana, tempo e diciamo il posto per mettere tutta questa roba. Io stavo dando un'occhiata giù in garage, praticamente mi ho allestito una vecchia scrivania che c'è, che ha due cassetti ed erano pieni di tante altre cose che ho tolto e mi sto mettendo lì tutte le attrezzature che uso, diciamo, da alimentatori a attacchi, PL, di tutto, cavi 12 volt, basette di antenne varie, eccetera, e ho riempito già due cassetti. Figurati, quindi la cosa ti stai facendo, peggio di me, sì. Io ho una camera piena di roba, da tester, c'ho un pacco di Baofeng nuovi, comprati. Io sto tolto, devo solamente portarli da qualcuno che mi imposti la frequenza PMR e l'EPD e basta, non devo fare altro. Io ho 4 ne ho di 15 in pratica, 2 coppie. Quel lavoro, se vuoi, se è quella serie Boafeng 888, dovrei avere io il programma. Se tu non lo sai fare, dovrei riuscirci io col computer a programmarli e metterci la frequenza PMR. Ok, da. Facciamo così, intanto gli faccio il libricino delle frequenze. Cioè LPD e PMR nel catalogo della Midland, così sai le frequenze e non fai altro che impostarle. Ok, va bene, facciamo così. Quando sei libero ci vediamo e me lo fai con calma, non mettiti problemi. Tanto ce li ho qua di riserva, capito? Li uso per fare antenne, perché mi ero chiesto adesso, stavo facendo un nuovo, ero da parecchio in pratica, fermo, stavo facendo con l'impianto di antenna TV e per portarmi le V5 R più plus che mi dispiace, capito, c'è display e poi si rovina, se non si cade l'antenna, ma non si cade quello, l'888 se la biglia in culo, per quello che costano. Mi sa che sono 16 canali, vero Antonio, me lo confermi, e questi 888S Boafeng? Sì, sono 16 canali, so. Capito, sono quelli che escono 5 watt. Io dovrei avere un CD con cavetto, con ingresso USB per il computer e poi lo spinotto, forse spinotto microfono, magari qualcosa del genere. Non mi ricordo se c'è uno spinotto particolare in quelle radio, però domani lo guardo che scendo in garage e poi ti faccio sapere la prossima volta che ci sentiamo, così ci mettiamo d'accordo. Se me li dai, te le imposto io quelle frequenze. Ovviamente sono 8, se non ricordo male, le frequenze PMR, al limite poi gli altri 8 te li posso fare con i toni, se li prende. No, i toni non mi interessa niente, li fa normali, li metti 8 canali PMR e 8 LPD, lo squelce a 1, senza tono squelce e niente. In pratica funziona normale, capito? Come se fosse lo V5 R più plus. Capito? Ho capito, sì, canali normali, senza toni, 8 di PMR e gli altri LPD. Perfetto. E mi sa che non lo so, devo frugare giù in garage perché qualche portatilino del genere forse ce l'ho ancora. Domani, se ho tempo che ci scendo, guardo e poi già ti faccio sapere una di queste serie, magari come ci sentiamo in radio e ci mettiamo d'accordo, così me li dai, te li faccio in un attimo e non è che ci impiego molto. E vabbè, già ti do anche lo V5 di più plus, così ti rendi conto, fai le prove, hai capito? già c'ho il portatile, così ti rendi conto, qui c'è scritto canale PMR1, PMR2 fino a 8, dopodiché segna LPD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vabbè l'altro arriva fino a... ne ha molti di più, in LPD ce ne sono di canale, comunque sia, sono 69, figurati tu. C'è un portatile di quelli piccolini, quello te lo regalo, è LPD, fa dal canale 1 al canale 69, c'ha, mi sembra 20 milliwatt, una cosa del genere, ma è bellino perché ascolti tutto. Aspetta un secondo che vado a pigliarmi una bibita al limone. Tranquillo, tanto anch'io sto leggendo qua e dopo richiami, già sono in ascolto, tanto ne bevi tranquillamente. Arrivo subito, io bevo la bibita al limone, quella che non serve un tubo in pratica, che non ti fa male alla dentiera, tanto meno la lavorare così, non ti ubriaca da niente, e bibita al limone digerisci, non è come quella verde che ti gonfia lo stomaco, cazzo, che quando vai a mangiare non ce la fai più. Allora con questa cominci a ruttare, e a parte che pisci, sembra che c'hai la prostata attaccata. Vai, bevi tranquillo, vai Antonè. Sta arrivando. Questo Antone? Microfono normale, che vuole entrare su 7 mm. Vecchio di porco c'ho, cazzo. Ah, era l'altra radio, i toni che sentivo, pensavo fossero del microfono, e invece era la radio. No, l'altra radio è cinese questa qui, questa è la macchina. È cinese questa qui. C'ha tutti i canali PMR, LPD, poi a parte altri canali pure memorizzati, figurati tu. Poi c'è gente su questo canale. Deve essere anche 27 senz'altro. Là c'è, se ogni tanto c'è qualcuno su quelle frequenze lì, PMR, o sono quelli dell'ospedale, quelli che fanno servizio di portierato, eccetera, ogni tanto becchi qualcuno. No, dell'ospedale proprio non c'è più nessuno. Sul canale 7. Aspetta un attimo che vado l'acqua a Simona, 2 minuti. C'è qualcuno sul 10? Ciucche sono entrato. Prima ho sentito una portante, era un Santiago 7-8, a vuoto, però ha fatto due colpi e non si è sentito nessuno poi. Magari qualcuno sta ascoltando, boh, interessante. Ci dovrebbe essere di solito un amico mio che gli ha prestato. Gli ho dato 2 portate, gli ho dato PMR e più il baracchino per la macchina con la magnetica, quello famoso che avevo comprato, cazzo, quando c'era il lockdown, offerta speciale 80 euro, cazzo, mi hanno fatto pagare, costava 60, 86 euro mi hanno fatto pagare con il lockdown, ma l'hanno incurata a posto di averlo pagato di meno. ma comprando la fusa oggi la gira. Eh sì, perché il prezzo, io penso a quello che ho preso per la macchina, il CB piccolino President in offerta, l'ho preso su Amazon, costava 110 e c'era l'offerta last minute, l'ho presa al volo, 70 euro senza spese di spedizione, mi è arrivato in 3 giorni. Allora, a me mi hanno fatto pagare le spese di spedizione 20 e passa euro, 25 mi sembra che era, c'ho detto dietro la scatola, c'era, capito, costava 68 l'apparecchio, mi ha fatto pagare 80 e qualche cosa, perché c'era il lockdown, capito, infatti non ho più tirato nulla, aiuto, no, non mi torno più a fregare la mia roba così, fare la cosa, prendo il binocolo, pagamento in contanti, arrivare a casa, immonocularmi, ce l'hai presente quello che si mette, ti mette il telefonino e guarda, fa le foto, prendo, faccio arrivare, fare il contatto 57, dopo che è arrivato qua, passo dai cinesi, giù da a fianco alla piazzetta, 13 euro costava, ha detto cosa, ha messo là, non dire nulla, Simone, ha detto sono qua da mammazza. Ho capito, io addirittura questo che ho preso di baracchino piccolo c'è anche l'uscita, la porta USB per caricare, per esempio se devi caricarti il cellulare in macchina, cose del genere, c'è una sorgente uscita da 5 volt 2,1 ampere, infatti l'ho preso anche per quello, così c'ho un'altra uscita USB nella macchina oltre quella dello stereo, che magari quella la usi per metterci la chiavetta con la musica o cose del genere. Ah, ho capito. Hai fatto bene, no, il mio non ce l'ha quello, è la verità, il mio non ce l'ha. Il mio è normale, la palata, l'ho comprato così. È omologato 4 watt, più di quello non ha, però io stavo facendo un po' di ricerche su internet, eccetera, su YouTube ci mettono di tutto, e si può espandere sia la questione di frequenza che la potenza, però è un po' complicatina la cosa, perché è piccolo e quindi sono tutte le parti micronizzate e quindi ci vuole una bella lente per ingrandire, cosa che adesso mi manca la lente, perché ce l'avevo ma mi si era rotta e quindi, capito, o me la compro nuova per fare saldature, quelle sono l'ideale, perché ti metti la lente, vedi bene e non sbagli così. No, non c'è bisogno. Ti accompagno io dai cinesi, ti faccio comprare quella lente che usano gli orologiai, te la metti in testa, in pratica, e c'hai una lente in un occhio e una lente nell'altro, e capito, c'è le varie gradazioni, poi c'è la lampadina con la bianca a led e quindi ti illumina anche lo stampato e vedi benissimo e lavori bene. L'unica cosa è che devi avere i saldatori di quelli piccolini da 10 watt, quindi una cosa del genere, hai capito, per poter fare quelle micro saldature, se no ti rimane tutte le cose in mano. Sì, no, quello già ce l'ho piccolino, il saldatore, quello proprio per fare le saldature sulle schede, eccetera, ce l'ho da un sacco di tempo. E la lente, che prima avevo la lente, quella grande, però purtroppo si era rotto il supporto e non si può più aggiustare, ma in effetti optare su qualcosa di cineseria così, in effetti già va bene anche quello, Antone. Io l'ho preso così le lenti, vanno benissimo, lavoro bene, capito? Sugli stampati, cose del genere, lavoro benissimo, è bello per quello. Vabbè, poi io ho la lampada per quello, no? per illuminarmi lo stampato, e quindi riesco a farmi le riparazioni, quelle normali, quelle micro CD, che stai dicendo tu, quelle non le tocco nemmeno. Qui ci vuole l'apparecchiatura adatta, ci vuole il saldatore aria calda, non è facile, capito? Non è facile. esco con gli occhi con quella roba lì. La voglio mettere cieco prima del coso. L'ho visto un amico mio che era entrato lì da scappa a lavorare tanto tempo fa. Si è messo, faceva il tecnico, no? E ha sempre fatto il tecnico lui, no? L'ho sempre conosciuto senza occhiali. Da quando si è messo a fare riparazioni di cellulari, cazzo, c'aveva gli occhiali grossi quanto il fondo della bottiglia. Allora io ho detto, ma che cazzo di senza occhiali? E dice Antonio, mi sono rovinato, dice, lavorando, dice, la scarpa, facendo queste micro riparazioni di stampati e mi fattevo la luce della lampada e come andare a guardare, dice, in mezzo alla neve, la stessa identica cosa che facevo, l'ha rovinato gli occhi. Io lo credo, perché quando sforzi così tanto la vista a fare sempre quei lavori di precisione, cose su scheda elettronica eccetera, non è una buona cosa a passarci tanto tempo così, ti rovini per forza la vista poi alla fine quando sfrutti troppo. Io mi capita raramente, ma infatti ho quel saldatore piccolino proprio perché più di una volta sono riuscito ad aggiustarle anche schede di stufe eccetera, ogni tanto mi attento e riesco sempre a fare le riparazioni quando salta qualche saldatura, capito, e non ti funziona. Mi controllo col tester tutti i circuiti, vedo dove c'è l'interruzione, magari era saltata la saldatura, con quello riesco a ripristinarla, poi riprovi col tester, vedi che non c'è più interruzione, provi, track, tutto a posto. E ho aggiustato anche da poco un paio di stufe che erano buttate, messe lì perché non funzionavano, mi sono messo perché mi ho fatto un po' di pulizia nel garage, adesso c'ho tutto il tavolo grande, libero, e me lo uso quello per fare riparazioni. Come termino, tolgo tutto libero per la prossima, se no era un casino prima, era il tavolo pieno di ogni cosa. Figurati. Senti. Aspetta. Infatti era quella che dice il meteo, se non sbaglio, infatti ho detto la voce femminile c'è nel meteo, Mar, sul non mi ricordo se sul 12 o qualcosa del genere. No, 26 Marino. Riesce per essere. Vediamo da dove. Ma già esce, già. Allora, vediamo un po'. La TP ormai, vabbè, non c'è. A quest'ora. Questo è 118, mentre. Fissa. Anzi, non c'era questa volta fissa, non capito perché sempre. È come se usassero solo dati e basta. Cos'è un coso, un ricevitore quello? No, è quello che ho detto, VHF che c'ho cinese. La macchina mia, gli altri lo faccio vedere quando ci vediamo. Me l'ha regalato mio cognato, me l'ha regalato. E l'ho impostato lui, mi ha impostato le frequenze, capito? E esce bene. L'unica cosa è che io ci ho messo l'antenna della direttiva della UHF, quindi il UHF non riceve bene. Però qui buco. C'ha problemi, ma in buco già esce perfetto. È un demonio. Beh, lo credo. Quelli lì poi sono micidiali, fanno un sacco di cose, costano due citi questi così della cinesi, però sono eccezionali. Magari il materiale di costruzione non è quello, non è dei migliori, però ne ho visto che hanno un sacco di funzioni, funzione ascolto, meteo, tutto, fanno qualsiasi cosa. Sì, fanno apertura a ponte, chiusura a ponte. Fanno impostare i toni, fanno tutto a fanno. Sono piccolini, è un... Come ti posso dire? È grande quanto la lattina della birra, se la metti in orizzontale. Ho capito, sì, hanno lo shift, più o meno, aggancio ponti, toni, tutto quanto hanno. I cinesi hanno copiato e hanno fatto una cosa unica, sono micidiali, però la durata di queste apparecchiature non è, come a dire, prendere una marca Kenwood, che ne so, Yaesu, Icom, quelle, ovviamente la costruzione è migliore, anche se sono sempre le parti interne, le schede, tutto costruito nei paesi asiatici, Taiwan, eccetera, eccetera. Se vai a riparare, ti conviene cambia direttamente la scheda, stai scherzando. Non ne vuole manco la pena riparare. Cambi la scheda e tanto costa una cazzata. Non l'ho visto, io l'ho visto in TV tanto tempo fa, che ti vendono le schede. Di strada, cazzo, già pronte. Tu vedi, mi serve questa scheda. Vedo, eccola pronta. Tra l'altro non fai altro che andare a piazzartela. A paghi, in Cina fanno così. Sono micidiali, sono, già li ho visti. Oggi niente calcio, a proposito, infatti sono così buttato perché alla televisione non c'era niente, canali Rai non c'è niente, io c'ho Sky, c'ho un po' di serie TV da seguire, ma in questo periodo non ne ho voglia di guardare la televisione, giusto quando ci sono le partite, però ieri c'era la nazionale e oggi siamo senza la Serie A per quello. Mi sa che adesso la prossima partita la nazionale la dovrebbe giocare lunedì con l'Irlanda del Nord. Facciamo schifo, facciamo anche schifo. Abbiamo vinto campioni d'Europa e adesso gira, manco siamo qualificati, è già successo già una volta una cosa del genere, che eravamo campioni eccetera eccetera, quando siamo andati a qualificarci, facevamo schifo, facevamo. Sai cos'è il problema? Che i giocatori sono talmente stanchi che non ce la fanno più, hai capito? Troppe partite, troppe campionate e queste cose europee, e poi c'è la Champions League, e poi c'è quello, e poi c'è quell'altro, hai capito? Arriveremo a un certo punto, guarda che giocatori ci moriranno in campo di collasso, te lo dico io, se continuiamo così. Sono talmente stressati a fare partite, partite su partite, che non ce la fanno più. Una volta c'erano le partite per dire le Olimpiadi, i campionati europei, poi il campionato normale e basta. Adesso hanno cominciato a metterci Champions League e quell'altro. A un certo punto i giocatori stanno giocando tutti i giorni, gira. Ma come fa un giocatore a vendere quando gioca due o tre volte a settimana? Ma stai scherzando? Più tutto il resto solo per soldi, capito? Solo per soldi. Una volta arrivato un giocatore a 40 anni non addirizza manco più, non so d'altro, hai capito? Talmente è stressato che non addirizza manco più. quello hai ragione, perché competizioni ne hanno, a parte la, che ne so, c'è la Serie A, poi c'è la Champions, poi c'è l'Europa League, Conference League, Coppa Italia, poi c'è la Supercoppa Italiana, Supercoppa Europea, insomma chi più ne ha più ne metta, in più tutti gli impegni delle nazionali, no? I vari giocatori che poi rientrano eccetera, sono spremuti e ripremuti, quindi alla fine ovviamente qualche partita la steccano, come ha fatto la nostra nazionale e come ha fatto l'altro giorno o ieri, che forse ha giocato veramente il primo tempo da schifo, poi al secondo tempo ha fatto qualche cambio, ho visto Mancini, hanno fatto qualcosa in più, poteva anche vincere l'Italia, però ha sbagliato il rigore al 90esimo e quindi adesso gli tocca fare una fatica enorme per giocarsela tutta con l'Irlanda del Nord la prossima, e sono costretti a vincere dovranno cercare anche di segnare più gol possibili per fare in modo che così